Libera, insieme con tante associazioni nazionali, con i sindacati, ha deciso di organizzare questo presidio per chiedere al Parlamento di fermarsi, per non approvare un decreto che fa fare un passo indietro nella promozione dei diritti e nella garanzia della dignità delle persone. Intanto mettere insieme tre argomenti, come quello dell'immigrazione e della protezione umanitaria, quello della sicurezza e dell'ordine pubblico e quello della confisca dei beni, delle mafie, sicuramente non è stata una scelta giusta e condivisibile, perché sono tre materie diverse che hanno bisogno di approcci differenti, di politiche mirate a una maggiore efficacia dei loro interventi. Non si possono confondere questi argomenti. E soprattutto sul tema dell'immigrazione, sul tema della protezione umanitaria, non si è tenuto conto di tanti percorsi autentici, di tante realtà di accoglienza diffusa nel nostro paese. Si toglie la dignità a quelle persone, amici migranti, che rischiano davvero di restare in una situazione di non riconoscimento. E poi sul tema della sicurezza, non condividiamo alcuni provvedimenti che non vanno nella direzione giusta, perché sicurezza si intende vivibilità, si intende inclusione sociale, si intende garantire i diritti all'abitare, alla salute, alle persone più fragili ed emarginate. E poi sul tema dei beni confiscati si introduce, seppur con alcune note di positività sull'Agenzia Nazionale, con un rafforzamento degli strumenti del personale, ma si introduce la vendita, per la prima volta in Italia, la vendita ai privati, con il rischio concreto che questi possono ritornare nelle mani degli stessi mafiosi, senza cautele e vincoli. Cosa che è stata ben evidenziata dai magistrati della Procura Nazionale Antimafia negli scorsi giorni. La vendita non può essere una scorciatoia. Le criticità che ancora si riscontrano nel riutilizzare i beni confiscati devono essere risolte in altro modo. Si utilizzino i fondi del Fondo Unico Giustizia per dare più strumenti all'agenzia e gambe concrete a tante esperienze di volontariato, di cooperazione sociale, di agricoltura biologica che questi anni hanno dimostrato di saper coniugare legalità nell'economia e inclusione sociale. Mentre appunto il rischio che voi segnalate è proprio quello che, introducendo la vendita ai privati dei beni confiscati alla mafia, praticamente sia possibile poi usare un prestanome, perché volevo partire proprio da questo tema, che è la denuncia forse più grave tra quelle al decreto sicurezza sul fronte, diciamo, dei rapporti con la mafia o quantomeno del contrasto alla mafia, diciamo. Sì, sicuramente c'è un rischio concreto a nostro avviso. Molti magistrati impegnati nella lotta alla mafia lo hanno fortemente evidenziato. Perché i vincoli che sono stati inseriti a nostro avviso non sono sufficienti per evitare questo rischio. In passato già è successo, questa maglia che si apre produrrà effetti negativi a nostro parere. E invece un altro tema, che è quello appunto legato all'accoglienza, noi ne abbiamo già parlato un po' su queste frequenze, ma insomma la dismissione o comunque l'abbandono un po' del sistema SPRAR, che è un sistema anche più controllato, e sembra un po' un ritorno a quel passato in cui invece, diciamo, le migrazioni non erano mai molto regolamentate, l'accoglienza non era mai molto regolamentata in Italia, c'era poco controllo e ci sono stati anche casi di corruzione e di infiltrazione mafiosa nel sistema dell'accoglienza. Tra l'altro Saviano aveva accusato Salvini, quando è stato nelle terre, diciamo, gestite dal caporalato, di non aver fatto nessun cenno per dire a questo tipo di infiltrazione. Secondo voi il decreto sicurezza potrebbe avere effetti negativi anche da questo punto di vista? Sicuramente non valorizza sicuramente le esperienze positive fatte in questi anni da molte amministrazioni comunali, da molte associazioni, cooperative che nella trasparenza e nell'autenticità dei loro percorsi hanno portato avanti azioni di concreta integrazione degli amici migranti, favorendo la loro inclusione, favorendo l'inserimento nelle comunità locali, dando loro opportunità anche di lavoro pulito e onesto. Nella trasparenza e nella corresponsabilità di questi percorsi devono essere valorizzati, non si può non tener conto di questo. Ti chiedo solo un'ultima cosa, se come Libera avete in programma altre manifestazioni o comunque altre azioni nei confronti del decreto sicurezza. Sì, sicuramente come mondo dell'associazionismo nazionale, del mondo del sindacato, porteremo avanti delle azioni di vigilanza rispetto a quello che sarà approvato, quello che sarà attuato. Vedremo poi la Corte Costituzionale dichiarerà o meno incostituzionale alcuni passaggi, così come il Consiglio Superiore della Magistratura ha evidenziato con la sua relazione alcuni giorni fa, e vigileremo perché i beni confiscati ancora non destinati, e sono ancora 17.000 in Italia, possono avere un uso pubblico e sociale. Vigileremo, monitoreremo questi beni e faremo la nostra parte perché non possono essere venduti a privati.